punto centrale è stato di fare attività di intermediazione in modo molto tradizionale, che significa raccogliere il risparmio e concedere credito alle famiglie e alle imprese. Direi che quello che può impattare sulle banche in questo momento è proprio il punto relativo alla mancanza di fiducia che c'è sui mercati, perché la mancanza di fiducia sui mercati fa sì che in questo momento anche per le banche italiane, che pur hanno dei fondamentali a posto, e quando parlo di fondamentali parlo di situazione di capitale, di liquidità e anche la redditività, che pur essendosi abbassata è ancora un elemento a cui guardare, la liquidità in questo momento è un problema perché i mercati internazionali sono chiusi per questa carenza di fiducia. Quindi il punto centrale su cui lavorare è far ripristinare a livello europeo e direi a livello mondiale la fiducia nell'Europa e nell'Italia, in modo che circolino di nuovamente i capitali in modo libero, come succedeva fino all'estate lo scorso anno. Che non è un tema specifico della singola banca o del singolo sistema bancario, è un problema che riguarda un po' tutto il sistema bancario europeo. In conclusione, cosa potrebbe riportare la fiducia? Ma io credo che un punto importantissimo siano le manovre su cui stanno lavorando i leader europei in questi giorni, per passare innanzitutto a quella che viene definita, no, unione non solo più monetaria ma bancaria, economica e politica, in particolare le misure per ridurre questi spread che ci sono tra i nostri titoli di Stato e i titoli di Stato tedeschi in particolare, perché questo è il costo che il nostro Stato paga e che le banche devono poi sopportare, e che quindi potrebbe creare degli impatti sull'economia reale, sul credito e sull'occupazione.